Dopo le forti scosse di ieri, panico nel Mugello per la visita della protezione civile con i collaboratori di Bertolaso dotati di migliaia di casette prefabbricate finlandesi già pronte per l'uso. Anche se non si registrano particolari danni alle case, molti temono infatti di doverci passare delle prestigiose vacanze natalizie con Berlusconi e una settimana bianca low cost con Franceschini.